Olimpia, miti e verità dello sport, di Dario Ricci. E a luna rossa ma parli te, il domando si aspetta a me, e mi risponde se io vuoi sapere, che non c'è sta nessuno. Olimpia va oggi in trasferta agli dei dello sport e dell'Olimpo. Ci hanno infatti spinto al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Siamo qui sotto Luna Rossa AC-72. Sì, il catamarano ad ala rigida che è stato protagonista delle finali delle regate di selezione degli sfidanti della 34esima America's Cup, la Coppa America, il sacro graal di tutti i velisti a San Francisco nel 2013 e che ora sarà qui in esposizione permanente presso il Museo della Scienza e della Tecnologia fino al 2017, fino almeno al 2017, anno in cui si disputerà la 35esima America's Cup, nel giugno del 2017, nel scenario del tutto particolare delle Bermuda. Ebbene, oggi vogliamo rivivere sia il mito di Luna Rossa, sia quello della Coppa America, che spesso torna protagonista anche qui a Olimpia. Perché? Perché questa è la sfida per eccellenza agli dei del mare e del vento, la sfida tecnologica per eccellenza, oltre che una straordinaria competizione sportiva. E allora riviviamo la parabola di Luna Rossa attraverso le voci di alcuni suoi grandi protagonisti. Max Sirena, skipper di Luna Rossa Challenge, ha timonato AC-72 nella sfida del 2013 ed è pronto a farlo ora per la nuova campagna del 2017. Con emozione che ha incontrato e ha rivisto la sua Luna Rossa in una location, in un'ambientazione così particolare come quella del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano. Beh, diciamo che è una prospettiva diversa, generalmente sono abituato a guardarla da sopra, non da sotto, quindi è la prima volta che una barca di questo genere arriva all'interno di un museo così prestigioso come questo qui di Milano, della Scienza e della Tecnica, quindi io personalmente sono anche un po' orgoglioso perché finalmente apriamo un po' le porte a un mondo magari sempre visto su copertine o su televisione, quindi credo abbia un'immagine, renda un'immagine diversa rispetto a quella normale di una barca di Coppa America. Anche perché questo, al di là di vittorie, record, trionfi, velocità, è anche un successo del Made in Italy e anche un prospetto avveniristico di quello che è un po' la sfida col vento e il mare che voi fate da marinai. Sicuramente è una sfida italiana, basta vedere i nomi, il nome è un nome italiano, no? Sia quello che c'è a poppa che a prua, quindi sicuramente visto anche la situazione degli ultimi anni in Italia, credo che forse è arrivato il tempo di iniziare a essere un po' più orgogliosi di noi stessi invece di subire sempre, visto che le realtà in Italia ci sono a livello anche mondiale. Per me è una cosa spettacolare che credo che molti ne andranno orgogliosi. Io mi ricordo l'ultima volta che ero venuto qua, ero bambino, andavo a scuola, quindi mi immagino i bambini quando vengono a vedere un oggetto del genere qui sospeso per aria, insomma credo faccia discreto effetto. Beh, bello immaginare che vedendolo da questa prospettiva, studiandone le caratteristiche tecnico-scientifiche, magari un bambino un giorno diventerà Max Sirena. Ma se diventa Max Sirena non è importante, però se riusciamo in questo modo ad avvicinare un bambino alla vela, per me è già un grosso risultato, quindi speriamo. Senti, prossima Coppa America, addirittura le Bermuda, si è molto discusso su questa location, anche questa molto diciamo avveniristica e particolare, un bel grattacapo da risolvere per un velista come te, perché lì correnti, venti. Ma sicuramente è un posto nuovo alla Coppa America, un posto in cui abbiamo già regatato in passato perché ci sono comunque delle regate che vengono svolte lì da tantissimi anni. Nei prossimi mesi, anni andremo a fare delle prove, dei test, degli allenamenti per non arrivare completamente impreparati poi nel 2017, però alla fine sarà uguale per tutti, quindi tutti dovranno dare il massimo come al solito. Questi americani hanno un po' rivoluzionato, no, il protocollo della Coppa America, che pure ha sempre dato da ragionare, usando un eufemismo, prima il catamarano, poi adesso questa location così innovativa. Per la tua esperienza, non sarebbe il caso di riportare forse la Coppa in un alveo, tra virgolette, più tradizionale? Oppure questa è una strada da cui non si torna indietro? Bisogna vincerla per portarla... per portarlo un po' più alla normalità. Sicuramente questo è l'obiettivo principale di Luan Rossa, quello di cercare di vincere, per cercare di riportare questo trofeo un po' alla tradizione che ha avuto per più di 150 anni. Quindi l'obiettivo nostro è quello di cercare di vincere, poi se il futuro saranno di nuovo queste barche qui o un'altra tipologia di barca lo scopriremo più avanti. Intanto cerchiamo di lavorare per vincere, poi dopo sarebbe un bel problema da avere in futuro. Al momento il lotto delle rivali? Ma i team in realtà iscritti oggi sono tutti forti, perché ci sono i neozelandesi, gli svedesi, un team inglese che ritorna in Coppa America dopo tanti anni e gli americani ovviamente, quindi sono tutti team di altissimo livello, sono tutti da battere, quindi chiunque di ognuno di questi potrebbe vincere la Coppa, quindi dobbiamo cercare di battere tutti. Cosa vuol dire questo nome, questo simbolo, Luna Rossa? Per l'Italia del mare e non solo, cosa rappresenta? Ma secondo me, senza presunzione, credo che Luna Rossa sia diventata un po' la nazionale della vela italiana, no? A un certo livello. Sono quasi 20 anni che Luna Rossa ha regata ai vertici, vincendo tantissimi trofei. Anche nell'ultima Coppa America abbiamo vinto il circuito, il campionato del mondo degli AC-45, i catamarani che sono stati utilizzati in avvicinamento all'ultima sfida, abbiamo raggiunto la finale Louis Vuitton con questa barca, quindi voglio dire, credo che l'Italia sia stata ben rappresentata in Luna Rossa negli ultimi 20 anni. Adesso ci manca l'ultimo passo finale, che è quello di cercare di vincere la Coppa. Allora, buon vento in vista di Bermuda 2017, Max. Grazie mille, grazie. E a Luna Rossa ma parli te, il domando si aspetta a me, e mi risponde se io vuoi sapere che non c'è sta nessuno. Onore al padrone di casa, Fiorenzo Galli, direttore generale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, che ha così accolto questo straordinario oggetto da esporre, in vero un po' ingombrante ma davvero stimolante per tutti gli scenari e le possibilità anche didattiche che apre. Beh, è uno degli auspici, le strutture come la nostra nascono e si sviluppano nelle loro attività per dare comprensione alla gente delle belle cose che riesce a produrre questo paese. Non dimentichiamoci che Luna Rossa è frutto di tecnologia tutta italiana. Gli equipaggi possono essere anche stranieri, in qualche caso e parzialmente lo sono, però la tecnologia che vede nascere per scelta, sapete che questa è una realtà tipica della Coppa America, no? Il vincitore detta le regole e fra le regole c'è che le barche vengono prodotte dal paese che le esprime, quindi tutta tecnologia italiana è di altissimo livello, come è di altissimo livello questo paese e il suo sistema di impresa. Quindi attraverso questo bellissimo oggetto che evoca sensazioni meravigliose sia nel ricordo degli appassionati, ma anche chi è appassionato di tecnica o comunque semplicemente chi desidera emozionarsi, ecco, attraverso questo strumento noi seguiremo anche lo sviluppo della nuova sfida, del nuovo challenge del 2017 a Bermuda, in cui ci sarà un'altra Luna Rossa, e che però verrà raccontata qua passo dopo passo per quelli che non sono naturalmente i segreti, no? Che ci sono dietro una sfida di questo genere, e quindi daremo alla gente la capacità di comprendere, la capacità e la volontà di seguire quel qualcosa che da scienza e da tecnologia diventa un fattore veramente umano, perché poi salire su questa barca e correre ci vuole anche un gran coraggio, andare a 40 nodi in barca in questo modo ci vuole anche del coraggio fisico, oltre che della professionalità di straordinario livello. Quindi tutto questo è un mix veramente bello e che ci piace raccontare. Eh sì, sfida tra uomini, ma sfida anche agli dèi del vento e del mare attraverso queste eccellenze tecnologiche, no? Direi in questo senso questa imbarcazione si inserisce perfettamente nel percorso che sviluppa qui il museo. Non c'è dubbio, quella è la parte che rimane da sempre, no? Da quando l'uomo ha cominciato ad andare per mare. Quello che cambia ovviamente sono gli strumenti con i quali si può andare verso questa sfida, però quella umana, quella rimane, quello è il valore vero. tante idee immagino in mente alla vista di questo gioiello. Avete già in mente quali percorsi possono essere sviluppati, che tipo di incontri didattici? Qualche anticipazione? Sì, naturalmente abbiamo un percorso che adesso stiamo studiando, quindi sicuramente parleremo non solo di questo oggetto, ma appunto della sfida prossima avventura, quindi delle tecnologie, ripeto, tutte italiane, che consentiranno un challenge che noi naturalmente da tifosi, no, a quel punto vivremo con grande passione e con grande emozione. Olimpia, miti e verità dello sport. Campo d'estaccio, c'hai tanta gloria, nessuna squadra ci basterà. Ogni partita è una vittoria, ogni romano è buon tifoso, sa strillare. Sogna nuovi stadi avveniristici Roma, come ben sapete dai progetti presentati dalle formazioni capitoline, ma intanto la capitale rischia di perdere però il patrimonio di cultura e di memoria rappresentato da Campo Testaccio, cuore della Roma giallorossa che in quel luogo leggendario ha vissuto pagine storiche e indimenticabili. In un'atmosfera di accesissimo tipo sportivo si svolge l'incontro Roma-Lazio, vinto dai giallorossi per 1-0. L'impianto di Testaccio fu progettato dall'ingegner Silvio Sensi, padre di Franco, presidente del terzo scudetto romanista, sul modello degli stati inglesi, in particolare quello dell'Everton. Aveva 4 tribune di legno verniciate con i colori della squadra, cioè giallo-oro e rosso pompeiano, che avevano una capienza di circa 20.000 spettatori ed un campo in erba le cui dimensioni potevano essere regolate in base alle esigenze della squadra. L'impianto di Testaccio comprendeva anche l'abitazione dell'allenatore, un edificio sul cui muro esterno era dipinto lo stemma gigantesco della società giallorossa. L'incontro Roma-Lazio allo stadio, chiusosi dopo una partita aspramente combattuta con la vittoria dei giallorossi per 1-0. Lo stadio è famoso tra i tifosi romanisti per via del periodo a cui è legato, di fatto quello delle prime partite della Roma e delle prime vittorie del club, tra le quali quella contro la Juventus del 15 marzo 1931, sconfitta per 5-0. Proprio da lì nacque il soprannome utilizzato ancora oggi di Roma Testaccina. La Roma giocò a Testaccio fino alla stagione 1939-40, in seguito alla quale l'impianto venne poi abbandonato perché dava segni di cedimento ed aveva subito ristrutturazioni che ne avevano sensibilmente ridotto i posti. Dopo l'ultima gara, lo stadio venne di fatto abbattuto il 21 ottobre del 1940. Oh, ma senti che è il primo portiere, vedi che gli spuglia che è un piacere. Oggi è Tafforello, Tempolini, col Gran Fulvio Bernardini che da scuola all'Argentini. Ma Testaccio è rimasto sempre il cuore della Roma giallorossa, che proprio l'anno successivo, nel 1941-42, vince il primo campionato nazionale. Per le strade di Testaccio venne poi celebrato anche il tricolore 1982-83, quello dei lupi guidati da Lidolmi in panchina e Falcao in campo. Scusa Mary, dal pianeta Testaccio voglio darti la formazione della Roma, che parte per disputare l'incontro con la squadra di Marte, perché qui sul nostro pianeta non ha più avversari, e allora prova con i marziani che dicono che sono forti. Eccoti la formazione in orbita, avanti Tancredi, avanti ancora il secondo, il terzino, il grande, il fortissimo Nela. Avanti Virkewood, il forte, il fortissimo Virkewood. Avanti mediani, avanti. Il fiume giallorosso si riversò, manco a dirlo, nelle strade del rione anche per il trionfo del 2000-2001, scandito dai gol di Francesco Totti e Gabriel Batistuta. Gol numero 20 nel campionato per lui. Il gol del 3-0 è realizzato dal Re Leone. Dal numero 18, Gabriel! E dire che alla presenza del sindaco di Roma, del presidente giallorosso Franco Sensi e di molti campioni romanisti del passato, il 27 novembre del 2000 lo stadio Testaccio è stato riedificato, anche se di dimensioni inferiori rispetto alla precedente struttura e con un progetto diverso da quello inizialmente previsto, che prendeva in considerazione l'ipotesi di un campo sportivo da 10.000 posti e 4.000 posti auto. Oggi però lo scenario è decisamente cambiato e in peggio. In seguito alla partenza dei lavori per la costruzione di un parcheggio sotterraneo, l'area ha subito un progressivo degrado. Il rinvenimento di alcuni reperti archeologici nel sottosuolo e una complessa vicenda di ricorsi in tribunale hanno fatto il resto. A oggi c'è solo una targa a ricordare il glorioso passato pallonaro di Testaccio, come sottolinea Alessandro Ciancamerla, assistente legale dell'associazione Riprendiamoci Campo Testaccio, creata dai testaccini proprio per cercare di riqualificare l'area. C'è una targa che è stata apposta qualche tempo fa, nella quale viene ricordato, oltre al ovviamente alla struttura, quindi al nome del campo di Campo Testaccio, viene ricordato anche Pippo Leonardi, che è stato un personaggio di spicco nella gestione delle strutture sportive all'interno del territorio di Testaccio, cioè era un allenatore di calcio e ha allenato parecchi a livello giovanile, parecchi ragazzi che ancora oggi lo ricordano. La targa ricorda anche quelle che sono le parole della canzone Campo Testaccio, che è un pezzo di storia, insomma, della romanità. E pensare che in quei giorni del novembre 2000 i testaccini sperarono davvero di rivedere rotolare un pallone su quel terreno magico, come ci racconta Emmanuel Mariani, presidente dell'associazione Riprendiamoci Campo Testaccio. Nel 2000 fu finanziato, all'epoca fu speso 1.600.000, allora c'erano le lire, per riqualificarlo, perché prima il campo era in un'altra posizione, la S Testaccio parliamo, non più di Roma, della società Testaccio, quindi fu collocato, ecco, dove prima sorgeva il vecchio campo, fu fatto in maniera diversa, però fu in una maniera un po' più piccola, ma una vittoria. Comunque avevamo un campo dove i giovani giocavano, rimesso a posto con dei soldi spesi, e poi nel 2006... sappiamo tutti quello che è successo, insomma. E si tenga presente che far rivivere Testaccio e il suo campo sta a cuore non solo ai romanisti, ma pure ai laziali, come deve ammettere a malincuore, ma col sorriso sulle labbra, lo stesso Mariani, romanista sfegatato. Certo, quello lo so, anche a mio malincuore, però vinsero un derby lì. Devo anche dire, questa è una cosa molto bella, che anche molti ragazzi della Lazio tifosi sono intervenuti per finanziare questo progetto e hanno anche scelto i colori, oltre i colori hanno scelto di appoggiare questo comitato e questa iniziativa. Si va oltre, ecco, oltre i colori, per un intento, per lo sport, per una parte storica che poi accomuna il tipo che batte dello sfottò poi delle iniziative, le tradizioni cittadine, quindi è una cosa bella che può riappacificare poi, ecco, questi momenti, il popolo, le persone sportive. Campo Testaccio, c'hai tanta gloria, nessuna squadra ci basterà, ogni partita è una vittoria, ogni romano è buon tifoso, sa strillare. Questa quindi è la situazione attuale di Campo Testaccio. Ma quale potrà essere il futuro di quest'area? Proviamo a capirlo col nostro ospite, Paolo Masini, assessore allo sport e alla scuola del Comune di Roma. Assessore, benvenuto a Olimpia. Ecco, diciamo subito che fa davvero male vedere Testaccio ridotto così, assessore? Sì, è una situazione che viene da lontano, che riguarda, che ha vari aspetti, anche diciamo amministrativi particolari. Noi stiamo aspettando il giudizio del Consiglio di Stato, che arriverà a maggio, e fino a quel giorno non potremo muoverci chiaramente in alcuna maniera, perché lì era previsto un PUP, pertanto un piano urbano parcheggi. La nostra attenzione è massima, perché è chiaro che quello è un posto storico, lo stadio della Roma storica, della vecchia Roma di Testaccio, pertanto noi stiamo intanto non perdendo tempo, parlando con le associazioni di quartiere, i vari comitati che stanno nascendo, perché noi vogliamo ridare dignità a tutta quell'area, non si parla solo del campo di Tessaccio, ma si parla anche di un'area più larga che prevede anche altri edifici che vanno riqualificati. Noi abbiamo in testa, diciamo, le idee ben chiare e bisogna solo aspettare il Consiglio di Stato che ci definisca la parte amministrativa di questa vicenda che va avanti ormai da anni. Quali potrebbero essere i progetti più realizzabili? Beh, è chiaro che quello deve essere un luogo destinato alla vita di quartiere, allo sport della vita di quartiere, accanto c'è una scuola, si potrebbero e si possono fare, ha delle potenzialità enormi quel posto, tra l'altro confina anche con il bellissimo cimitero acattolico che è lì accanto, è una zona pregiata di Roma e in un rione molto popolare che ha bisogno di spazi sportivi. Le stesse scuole del rione non hanno palestre adeguate perché è una zona, come dire, antica e storica, pertanto dal punto di vista urbanistico nata con quei criteri di quegli anni, pertanto quel luogo è perfetto per ridare dignità, è un luogo di coesione sociale anche in quel quartiere, quello che ci chiede il quartiere è quello che noi vogliamo fare. Intanto, assessore, è già capitato un piccolo miracolo perché anche molti laziali si sono uniti ai romanisti nel percorso per provare a recuperare quest'area, no? Sì, noi li stiamo incontrando tutti, con tutti coloro che ci stanno chiedendo appunto un incontro, abbiamo fatto già assemblee di quartiere, là tra l'altro io sono stato, come dire, artefice e protagonista della riqualificazione di Piazza Testaccio, che adesso è una delle più belle piazze di Roma, pertanto puntiamo molto su quel quartiere, è davvero un quartiere che amiamo, che si siano abbinati e uniti anche i laziali è un buon segno, diciamo, anche se quel quartiere è giallo-rosso nell'animo, però è chiaro che quello è un luogo da tutti amato e insomma i bambini hanno voglia di correre dietro un pallone di qualsiasi fede calcistica sono. Grazie a Paolo Masini per essere stato oggi nostro ospite di Olimpia e grazie anche a Valeria Bernardi in regia. Per l'appuntamento odierno è tutto, vi ricordo che potete riascoltarci in podcast dal nostro sito web radio24.it e scriverci alla mail olimpia@radio24.it. Ora spazio a tutti i convocati weekend, Olimpia torna come sempre domenica prossima dalle 16:30. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.